Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Avete sentito la mia introduzione al giornale radio poco fa? Ho detto oggi vi parlerò di una famiglia innaturale. Cosa vuol dire una famiglia innaturale? Beh, qualcuno dovrebbe spiegarmi innanzitutto cosa sia la famiglia naturale, ma diamo per scontato che sia una semplificazione, semplicemente per indicare un uomo e una donna, nel pieno possesso di tutte le loro facoltà fisiche e mentali, si mettono insieme e mettono su una famiglia. Questo è il modello da difendere, questo è il modello che naturalmente imperterrito attraverserà la società e tutte le sue intemperie, pronto ad essere difeso, scudi in mano e petto di fronte al fuoco nemico da chiunque. Ho visto gente radunarsi nelle piazze, negli anfiteatri, negli sterrati, nei prati, con le insegne, i crocifissi, coi preti, con le suore, con le monache, via dicendo, per difendere noi, difendiamo la famiglia naturale. Benissimo. Vi dico che ci sono alcuni modelli di famiglia che rispondono a tutti questi canoni di essere un uomo, di essere una donna, di essere uniti dal vincolo matrimoniale al vari figli, che però, diciamo, rispetto, se noi intendiamo naturale, esattamente omologato secondo un modello corrente, che hanno sempre qualcosa in meno, qualcosa in più, qualcosa di diverso, qualcosa che comunque meriterebbe attenzione e meriterebbe magari anche di avere una collettiva presa di coscienza del fatto che vadano, proprio le persone che hanno qualcosa in meno, qualcosa da supplire, vadano aiutati generalmente da tutti a non sentirsi sempre un passo indietro. E vi faccio un esempio di famiglia che secondo me è una famiglia naturalissima, anzi è una delle invidiabili famiglie che sono sinceramente realmente unite da un profondo, inestinguibile e indubitabile legame d'amore, che è già una cosa che diventa un'ipotesi nella maggior parte delle famiglie. Ci si sposa perché bisogna pagare il mutuo, ci si sposa perché viene l'orologio biologico e quindi occorre trovare una persona di pensiera per la vecchiaia, ci si sposa per un'infinita ragione, contenti i genitori, per dimostrare al mondo che non si è gay. C'è una serie di ragioni infinite perché la gente si sposi. Ma delle persone che fanno una scelta molto hard è quella che due persone si sposano, entrambi non vedono, due ciechi si sposano, dite ma sono pazzi, ma glielo fa fare, ma figuriamoci, quando invecchieranno come faranno, entrambi sono ciechi, chi li seguirà nella strada sempre difficile la vita? E già questa è una follia in sé, quindi già questo è un gesto innaturale, un gesto di ibris, di sfida al volere divino. Ma in più fanno anche un figlio. Come fanno un figlio due ciechi? Il rischio, se ne cieco anche il figlio, non potrebbero mai, non è meglio conducono una vita di unione casta, visto che ormai sono sposati, non fanno. No, hanno fatto un figlio. Due ciechi allevano un figlio. Una fantastica bambina, vede benissimo, scorre, va per casa, fa esattamente quello che fanno tutte le altre bambine. Padre e madre non ci vedono, la bambina ci vede. Padre e madre vanno in giro con il cane, con il bastone bianco, la bambina scappa, schizza davanti, corre dietro. La madre ogni tanto mi manda le fotografie della figlia, sono foto molto belle. Lei gliele fa e non so come faccia a fargliele. E tra un po' ve lo spiegherà anche voi. Melog. Cronache meridiane. L'ho spiegato l'introduzione. Oggi parleremo di una famiglia composta da padre e madre ciechi che non vedono, con una bambina fantastica, meravigliosa, sta crescendo, con tutti i problemi che possono dare i bambini nelle famiglie, i problemi di relazione con gli altri bambini, il problema dei colloqui con le maestre, il problema della salute, il problema delle domande che fanno i bambini. Come può essere affrontato tutto questo che è il punto del pathos familiare che viene discusso in tutte le cronache dedicate alle famiglie, in tutti i centri di assistenza familiare, in tutti i retrobottega delle parrocchie, via dicendo, quando in realtà i due interlocutori che pongono domande o che hanno qualche quesito sono due persone che non vedono. Antonella, buongiorno. Ciao, buongiorno. Avvicinati al microfono. Ciao, buongiorno. Però non ci sbatte la faccia, attento. Va bene. Antonella Cappabianca è la mamma. Chi ricorda la memoria storica di questa trasmissione, mi avvalsi del suo aiuto parecchi anni fa quando facevo il critico televisivo. Siccome da solo non ce la facevo, lei guardava la televisione per me e la raccontava. Voi direte come faceva. Lo faceva perché quando era piccola, tanto non vedeva, i genitori la mettevano dietro il vecchio televisore a tenere il ditino sempre pigiato sul pulsante a sintonia che si scavallava. Quindi mentre la famiglia guardava la televisione, lei seduta sulla seggiolina dietro il televisore ha ascoltato tanta televisione, quindi era capace a raccontarla. Antonella ha fatto questo gesto di, a seconda di quello che erano probabilmente gli amici, i parenti, totale follia. Quando sei sposata con un altro tuo amico, amante, fidanzato, appassionato, seducente, seduttore, però che anche lui non vedeva, cosa ti diceva la gente? Ma dipende. Qualcuno diceva no, qualcuno diceva sì, ma per fortuna siamo tutti e due pensanti. Sia io che Alessandro abbiamo deciso consapevolmente e ci siamo sposati. Per ora non si è pentito. Sì, siete anche molto attaccati, sempre per mano, andate per strada. Vabbè, quella è una necessità fisiologica, diciamo. Chi è che guida dei due? Io. Perché? Per molti motivi, ma tendenzialmente perché io sono abbastanza dominante e lui è intelligentemente recessivo, nel senso che sa che io ho bisogno di tenere la situazione sempre sotto controllo e sempre in mano e non riesco ad affidarmi con facilità ad altre persone. Beh, neanche a lui. Tu ti alleni da quando sei nata, però lui si allena sì, da qualche anno. È vero, abbiamo due storie diverse, un vissuto alle spalle, ciascuno di noi ha il suo vissuto che è fondamentalmente diverso, ci completiamo. E il tuo come raccontalo? Perché mica lo sanno tutti. Vabbè, il mio è il vissuto di una bambina cieca, poi ragazza, poi persona, insomma, che ha sempre vissuto serenamente la sua disabilità, mi viene da dire anche felicemente, e nel massimo rispetto di chi non la vive così, ma nella consapevolezza che per me la mia disabilità è stata una ricchezza. È parte di quello che sono, io sono così e non la voglio cambiare. Il tuo mondo è quello tuo, non hai alternative a cui rapportarti, quindi diciamo l'ordine naturale delle cose è il tuo punto di osservazione, chiamiamolo così, perché poi osservi comunque anche se non osservi con il senso della vista. Osservare è una necessità per vivere, perché osservare significa interagire col mondo. Ecco, pensa alla differenza, noi osserviamo il mondo anche in maniera futile, così per perditempo. Per te lo osservi soltanto perché devi orientarti nel no, mondo. No, non è vero, io anche no. Perdo tempo, non ti preoccupare. Ecco, fammi un esempio di osservazione come perdita di tempo. Che ne so, magari tante volte la mattina quando sono di fretta che devo scegliere un vestito per mia figlia, vestirla e portarla a scuola, mi piace toccare le felpette con l'animaletto morbido sopra o il pompon o il pile e mi ci perdo. Ah, ecco, perdi tempo, perché questo è il tuo tipo di osservazione. Ecco, come è avvenuto l'incontro con tuo marito? E dunque stavamo sciando, lui si è innamorato del mio cane che adesso non c'è più, io l'ho scambiato per un maestro di sci e lui allora vedeva? Sì, aveva un residuo, quindi è stato tutto un equivoco, lui pensava di fidanzarsi col cane, io pensavo di stare col maestro di sci e invece in realtà... Cioè c'aveva un residuo però non sufficiente a distinguere una donna da un cane? Ma no, vabbè, lui tendenzialmente aveva scelto il cane, ma non me lo far dire così. Perché era più peloso. Non erano previsti matrimoni uomo-cane all'epoca, neanche fidanzamenti. Allora ha scelto il cane. Ah, quello è il famoso cane che guadagnò una carezza del Papa. No, quella è Asia, il suo cane. E la mia non c'è più ormai. No, bellissimo che una volta ci fu questa cosa. Io, siccome conosco tuo marito, conoscevo il cane. Vedo in tutte le cronache del mondo, il Papa accoglie disabili e abbraccia, com'era la storia? Era tuo marito, stava lì per lavoro, sì, perché è giornalista. Sì, mio marito era lì per lavoro, Michela, nostra figlia, era nata da poco, lui non ci voleva andare, io come al solito l'ho obbligato ad andarci e poi ho avuto questo incontro e il Papa ha fatto una carezza d'Asia, perché la nostra famiglia attualmente si compone di noi due, mia figlia e il nostro cane. Prima eravate due di cani, però. Sì, e il mio non c'è più, è morto. Ti dispiace? Abbastanza. Era il tuo cane dagli origini quello? Sì, il mio primo e unico cane guida, direi. Una parte di me. Quanto ci hai messo a portarlo, diciamo, a livello ottimale di simbiosi con te? Penso un paio d'anni, sai, i rapporti si costruiscono, ma poi il rapporto si è costruito fino all'ultimo. L'hai seguito voi fino all'ultimo? Sì. E con quest'altro come ti trovi? Non è il mio cane guida, è il mio cane, le voglio molto bene, però non è il mio cane guida. È un rapporto diverso, non è un sostituto, non è un sorrogato. Ma ci può essere solo un cane guida per tutta la vita? I cani hanno una vita più corta dei nostri, si sa. Ma non sono macchine, sono scelte. C'è chi sceglie di prendersi il secondo e io attualmente preferisco di no. Anche perché sei abbastanza autonoma adesso. Più o meno Sì, devo dire di sì. Sono autonoma anche perché nel precedente periodo in cui avevo il cane ho imparato tante, tantissime cose. Senti, adesso andiamo all'idea più folle nella follia. Hai sposato già una persona e tutti diranno, ah, ma non ti aiuterà mai. Invece vi aiutate benissimo, perché vivete in una vostra... altro che le onde gravitazionali. Le onde gravitazionali sono quelle che creano la vostra realtà, che riesce comunque a vivere abbastanza bene nella nostra realtà. Ecco, dimmi la seconda scelta, quella abbastanza difficile, avere una bambina. Io mi ricordo, perché l'ho vissuta, me ne parlavi spesso, è una cosa che era... Era anche difficile darti consigli in quel periodo. La seconda scelta è stata una scelta maturata, sentita da tutti e due, ci abbiamo riflettuto, abbiamo avuto inciampi, esperienze tristi, non so, ricordo per esempio una volta avevamo deciso di intraprendere la strada della consulenza genetica e in un ospedale, nell'ordine naturale delle cose, in un ospedale ci hanno accolto in un modo che io ancora ricordo. Ci hanno detto, mi hanno detto, ma lei è già incinta? No, ah, meno male, ha detto la dottoressa. Perché? La considerava un rischio. Questo dovresti chiederlo a lei, perché però vedi, come in tutte le cose, c'è la persona, diciamo, impreparata e la persona preparata. Noi abbiamo avuto una bellissima esperienza col professor Dalla Piccola, che ci ha detto, ma coppie a rischio zero non esistono, altrimenti non ci sarebbe. Perché c'è un rischio fra di voi? Tutti, no, tutti hanno, noi siamo a rischio come una qualsiasi altra coppia, abbiamo due storie diverse, anche cliniche, due patologie diverse, ogni patologia ha fatto la sua strada e incrociandosi non interagiscono. Ecco, volevo dare il numero di telefono 800 24 0024, perché la gente non pensi che io, Antonella, siamo in un altro tempo, in un'altra dimensione, abbiamo registrato questa trasmissione. No, qua in studio con me è venuta. Non può essere in studio il marito, ma non perché non ci voglia essere, perché un impegno di lavoro gli impedisce di stare qua. Lui è un giornalista che lavora alla radio della RAI e quindi aveva altre cose in questo momento importanti da fare, ma come una qualsiasi coppia si dividono i loro impegni e i loro tempi. Però voglio dire alle persone che ci ascoltano, visto che questo sarà un racconto di una porzione di vita di una famiglia che ha più difficoltà delle altre, ma non si piange addosso, avanti per la sua strada. Poi entreremo anche negli aspetti problematici. Aspettiamo vostre telefonate. Ci saranno persone che vivono esperienze simili o reputano impossibile a vivere questa esperienza, o pensano che la felicità possa essere raggiunta solo nel pieno possesso dell'uso di tutti i propri sensi. Torniamo al punto. È il momento in cui di gestazione si parla tanto. Gestazione naturale, metodo naturale. Ci sono persone talmente piene comunque di pregiudizi che non richiedono nessun aiuto, perché o viene secondo i metodi supernaturali o se no niente, non si fa. Ecco, vi sarete fatti un pochino, poi è nata questa bambina. Sì, è nata Michela, abbiamo avuto una gravidanza bella, anche se insomma difficile, nel senso che ogni tanto si rompeva, ogni ecografia c'era una cosa che si aggiustava e una cosa che si rompeva, ma questa è nella realtà delle cose. Oggi tante gravidanze vengono portate avanti comunque con problemi. Io mi sono confrontata con le mie colleghe, amiche, e obiettivamente insomma qualcuno che mi ha detto sì, tutto liscio dall'inizio alla fine, non c'è mai stato nessun problema. Ma qualcuno ha detto, ma come pensate che riuscirete a levare questa figlia, voi due che non vedete? Qualcuno ti ha messo questo dubbio? No, non, diciamo, non apertamente, certo, insomma, scrollatine di spalle, sospiri, anche cose divertenti. Per esempio, mi ricordo, avevo portato Michela al nido e tornavo a casa ovviamente con la carrozzina vuota. Una signora mi ha detto, signora, nella carrozzina il bambino non c'è. Dico, sì, certo. Pensava che l'hanno rapito e non l'avevi visto. L'ho appena portato al nido, è ovvio che il vuoto me lo devo riportare a casa, la carrozzina. Pensava che eri sbadato, oltre ad essere cieca ti hanno rubato il bambino. Sì, magari che l'avessi lasciato da qualche parte, insomma. Mi dici qualche episodio clamoroso? Se no sembra che facciamo soltanto holly hobby. Di difficoltà, superate difficoltà, quelle te la vedevi da sola con te stessa, comincia la relazione, che è la prima vera difficoltà. Come hai fatto a far capire al mondo che comunque tu, madre cieca col padre cieco, avevi diritto a portare la figlia a scuola, all'asilo, dal pediatra, ovunque? Semplicemente l'ho fatto, e quando qualcuno ha posto degli ostacoli apertamente o non apertamente, fammi un esempio ho scosso. Per esempio, un esempio dell'ostacolo, non so, mi viene in mente una volta che eravamo in metropolitana, io avevo la bambina in braccio e in una fermata della metro ho chiesto al gabbiotto se mi davano una mano per aprire il varco e mi hanno detto, ma lei non può andare non accompagnata. Io, guardi, in che senso? Ma lei non può andare con la bambina non accompagnata. E poi hanno visto Alessandro e hanno detto, ah vabbè, c'è lui. Dico, ah vabbè, allora io non ho tempo di spiegarvi che anche lui sta quasi peggio, ma comunque se Da voi siete poverina, contenti dai. va bene così. E quindi la signora del gabbiotto era molto soddisfatta perché c'era qualcuno con me, non si è resa conto che condividiamo lo stesso handicap e quindi alla fine non avrebbe risolto niente, Ah, sei tu però che porti dietro tuo marito, come ti ho sì, detto, vedi? però vabbè, la cosa è stata Bastava che c'era un divertente. uomo, era diciamo, la coppia sacra era rispettata, Era c'era. rispettata, Quindi. c'avevamo anche il cane in quel momento, quindi Sì, c'era il eravamo maschio, la femmina, perfetti. il cane e la bambina, andava bene. Ci Andavamo. fermiamo un istante, diamo la linea alla borsa, poi riprendiamo con Antonella Cappabianca che ci racconta la sua vita di famiglia innaturale, ma molto più radicata in quelli che sono gli usi e le tradizioni naturali della famiglia di tante altre famiglie. Melog. Cronache meridiane. +800 24 00 24. Sto parlando della famiglia di Antonella Cappabianca. Sto parlando con lei in studio. Vorrei ci fosse anche il marito ha un problema di lavoro. Antonella Cappabianca è una ragazza cieca, ha sposato un ragazzo cieco, hanno fatto una bambina che ci vede. Questa è la sintesi. La loro vita è abbastanza complicata, però è molto felice. Questo è il paradosso che dovrebbe far rosicare tutti, anche la persona che mi scrive: caro Gianluca, per scienza e natura, due o più individui della stessa specie formano famiglia. Giacomo, ecco, quindi voi appartenete a una specie, No, questo. io appartengo all'umanità e anche Alessandro. Però questo messaggio mi fa riflettere, mi fa pensare. Effettivamente, nessuno è troppo eccessivo. Infatti, mio marito me lo dice sempre che io sono eccessiva, che per me è tutto bianco o nero e le sfumature di grigio io me le sono perse. Vabbè, non è che ti sei perso tanto, dai. No, però Almeno a te non c'è bisogno, ti metto la mascherina, scusa, quando ti frustano. C'è una considerazione da fare. La considerazione è che è vero, quando noi, ma anche io, quando noi vediamo qualcosa che è diverso da noi, che è diverso dalla nostra quotidianità, noi lo consideriamo di una specie diversa. Io, per esempio, ho fatto molta fatica adesso, soprattutto in cui comincia la vita sociale di Michela, no? I compleanni, le festicciole. E comunque noi, come dire, destiamo scalpore nostro malgrado come genitori. Quasi fosse una coppia gay, ecco, Noi peggio. vorremmo che nostra figlia vivesse molto serenamente. Noi viviamo serenamente la nostra condizione di E fammi genitori. degli esempi, voglio capire l'esempio, Allora, sennò. per esempio, io ho accompagnato mia figlia a casa di un'amichetta e la madre è rimasta scioccata, non mi viene una parola diversa per Ma perché, descrivere. vedendo te? Vedendo me è rimasta sconvolta. Ma qual era il problema? Che ti vedessero i bambini? Qual è che si Io impressionassero? Che ne questo so? non lo Eh no, so. dobbiamo capirla sta roba, perché. Io questo non lo so perché non posso E cosa ti ha sapere. fatto, signora? No, è stata cortesissima nell'imbarazzo, non posso dire che sia stata scortese, è stata molto cortese, però insomma l'imbarazzo si tagliava a fette, Non si era. aspettava tu vai per strada con Non tua si, figlia? no, no, c'era, c'è questa, c'è questa, insomma, c'è questa difficoltà. Fra l'altro, poi ci siamo rincontrate a un'altra festicciola di compleanno e mi sembrava che questo imbarazzo fosse stato, come dire, sciolto. Abbiamo scambiato due parole, per cui ho pensato anche di ricambiare l'invito, no? Ho detto, vabbè, allora aspettiamo la bambina. Ha detto sì, ma poi non l'ha portato. Cioè, sono uscita prima dall'ufficio, ho organizzato il pomeriggio con questa amichetta, ma la bambina non è venuta, quindi, come dire, questo imbarazzo poi si è riverberato anche nei giorni successivi. Non te l'ha più mandata a casa? Ma No, non è venuta. sei giustificata? No, non ha neanche risposto a un SMS. Quindi però... poi vedi, scusa, vedi, hanno paura di mandare la bambina a casa sì. dei ciechi. Pensano chissà, boh, che sia tutto sì, buio. Però, no, non lo so, non ho però idea. Però non generalizziamo, perché per esempio altri amichetti vengono tranquillamente a casa nostra, noi andiamo a casa loro. È uno dei tanti aspetti, voglio dire, di tanti genitori. D'altra parte, adesso ti lancio una provocazione che forse ti piacerà, d'altra parte nemmeno io manderei consapevolmente mia figlia a casa di due che si drogano, che bevono o che chissà che altro fanno. Vabbè, ognuno ha il suo standard di famiglia, pregiudizio. Di pregiudizio. Sì, però scusami, due che si drogano e bevono potrebbero, che ne so, avere un momento un po' fuori di testa e creare dei problemi. Non mi pare che possa accadere a due persone solo perché non vedono. Qual è, cosa potevi, non è contagioso e non avete comportamenti che ne so, negativi o che possono creare dei problemi di salute a altre persone, non lo so. Io non posso rispondere per l'altra mamma, rispetto le scelte di tutti. Certo, magari se mi mandava un sms in cui mi diceva che non sarebbe venuta, forse secondo lei non potevi leggerlo. No, perché gliel'ho mandato uno io, quindi tendenzialmente aveva paura, non aveva strumenti culturali ed emotivi per gestire qualcosa diverso da sé. È vero, conosciamo il problema, è giusto, non hai strumenti imbarazzo. Culturali imbarazzo, non imbarazzo. Ci sono strumenti culturali ed emotivi e viene l'ansia alla prestazione, come viene quando vedi qualcosa che ti sembra al di sopra delle tue capacità di gestirlo. Tre telefonate, ferma lì, zitta, buona, muta, che adesso riparliamo, poi dopo rispondi, chiaro. Giuseppe. Sì, pronto. Buongiorno. Sentite? Buongiorno. Sì. Senta, io volevo chiedere alla signora se quando pensa o parla con la sua bambina vede il viso, cioè se lo immagina in un certo modo. Che cazzata di domanda, scusa, è come chiedere a un daltonico che fai dei colori, vedi la differenza, no. Risponde al signore. Vede il viso, no, il viso ovvio... solo lo tocca quando l'ha partorita questa bambina, lo vede sì il viso, prego. È ovvio che io ho dentro di me un'immagine di mia figlia, è ovvio che mia figlia io la lavo, la vesto, la pettino, mi piace farlo, penso come a tutte le madri. Sì, lo vedo, no, non lo vedo, ma insomma io com'è mia figlia lo so, so quanto ha lunghi i capelli, so la forma del viso, l'espressione, il taglio del naso, il taglio degli occhi, le guanciotte come sono, sì. E vedi, il problema è che noi tendiamo sempre a ridurre l'unica possibilità di sondare, vedere, percepire il mondo a quella che è la nostra maniera di percepire il mondo. Come ti dicessi, vedi il mio maglione verde pisello, Antonella, tu non sai mai cosa sia il verde pisello, lo puoi immaginare, perché il tuo è un altro mondo, lo capisco, anzi ne sarei curioso di entrarci e capirlo, ma non è che penso che ti manchi qualcosa, perché infatti non è verde pisello, infatti è grigio, non metterei mai un maglione verde pisello. Guglielmo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Sì. Io ho un'esperienza praticamente analoga a quella di Antonella, sono non vedente, anche mia moglie, e ho una figlia che però adesso è adolescente, ha 12 anni, quindi sono un po' più avanti rispetto a lei. E confermo in tutto le esperienze che ha raccontato Antonella, sono successe anche a noi, e le dico di mettersi l'anima in pace, perché capiterà sempre. Però cioè... ci faccia qualche esempio, che sennò sempre, voi le sapete, ma noi non le sappiamo, vogliamo conoscerle. Dobbiamo, se possibile, far capire al mondo. Gli amichetti, adesso diciamo che è entrata nel periodo dell'adolescenza, vengono gli amichetti più grandi, comincia a uscire, o magari la porti a fare sport, quindi quando la porti a fare sport, il responsabile della palestra, appena ti vede che sei non vedente, comincia o ti riempie di domande, oppure si imbarazza, pensa che anche tua figlia non ci vede, quindi o la rifiuta, oppure c'è una sorta di complesso di superiorità, quindi... Ecco, ma come se lo spiega lei? Cerco di capirlo. Io non faccio testo, perché la conosco Antonella da talmente tanti anni, mi posso anche permettere di prenderla in giro. Io me lo spiego sempre con la, diciamo, con l'ignoranza, ma anche nel senso buono del termine. Manca cultura, questo. Manca cultura, ma anche manca esperienza, cioè la gente anche a buona volontà, cioè non è una cosa cattiva, però se uno non ha mai conosciuto non vedente, non... la gente scappa, diciamo, ha paura di... oppure non sa proprio come comportarsi, non se lo immagina, cioè invece io il consiglio che penso che anche Antonella dia è quello di comportarsi normalmente, cioè non c'è nessuna differenza. Dopo sono io che, se ho bisogno di qualcosa di particolare, lo chiedo, e se non ho bisogno di niente non lo chiedo e ci si comporta normalmente. E siamo tutti più contenti. Antonella? Assolutamente sì. Assolutamente sì, è così. Noi abbiamo la possibilità di chiedere che cosa desideriamo, che cosa ci serve, a volte anche di pretenderlo se è possibile. Però è così, questo imbarazzo c'è sempre, o perlomeno quasi sempre. Posso chiedere a Guglielmo una cosa? Sono curioso. Suo figlio è un adolescente, grande. L'adolescenza è un momento maledetto della nostra vita, di cui nessuno ha mai nostalgia. Viverla con dei genitori che non vedono, da un certo punto di vista è più facile eludere certe cose, ma da un altro punto di vista penso che sia impossibile nasconderle. No, perché no, allora, diciamo... Cioè questo... lei ha due genitori con radar, non si scappa. Allora, è successo questo, che naturalmente, come tutti gli adolescenti, mia figlia ha voluto il cellulare. Le ho fortunato, di solito lo vogliono all'asilo, è andata bene. Le ho dato il cellulare, però le ho preso un modello che abbia anche la possibilità di avere un sintetizzatore vocale, in modo che io possa comunque controllare quel che lei combina o non combina, insomma, comunque posso avere sotto controllo la situazione. Quindi nel momento in cui lei alla sera o va a letto, lo lascia lì, io lo prendo, attivo il sintetizzatore e vado a vedere. Questo non è manco bello, WhatsApp, adesso onestamente non dovrebbe farlo il genitore, le ha il sintetizzatore. WhatsApp, Facebook e queste cose qua. Vabbè, questo è il suo diritto, sua figlia lo fa fare bene, però sua figlia dice no, papà, quella è roba mia. Io ho messo le cose in chiaro, le ho detto all'inizio, io te lo prendo, però ti do questo modello e lo usi soltanto se... a queste condizioni, cioè però io ci sta, lo posso dire, in grado... ci sta, perché qualunque genitore può occhieggiare se vuole nel telefono. Ma questo vale per chiunque, esatto. Lei dice: io voglio avere il diritto di anche essere un padre curioso, però devo averlo a modo mio. Antonella, tu come la vedi? Io faccio tesoro dell'esperienza di Guglielmo, anzi, spero di saperlo ricontattare, perché c'è molto da imparare. Tante cose lui le avrà vissute necessariamente prima di noi, sa, almeno dieci anni avanti, insomma. Quindi sicuramente sì, è così. Io il problema del cellulare per ora ancora non ce l'ho, grazie a Dio. Fra 10 anni non ci saranno più manco i cellulari. Infatti chissà che cosa ci aspetterà. Avrò un microchip sotto pelle, non potrei farci nulla te, naturalmente. Soltanto a Adelmiro, buongiorno. Buongiorno, prima di tutto devo fare i complimenti a te, dottor Nicoletti. Vabbè, io non sono fuori, in questo momento faccio il mediatore. Vada al punto, domanda. No, per questo argomento, che può sembrare un argomento da niente, invece un argomento da niente, non faccio mai nulla da niente. Unica, e tra l'altro, voglio dire, io sono d'accordo nel dire questa coppia, che comunque è formata da un uomo, da una donna, da persone che hanno corpo, anima e cervello, hanno tutti i diritti praticamente di poter vivere, gli manca solo la vista. Sarebbero ancora meglio se addirittura gli mancasse l'udito per non vedere. Posso andare oltre lei? Se anche non avessero il cervello che funziona, avrebbero diritto lo stesso, perché non è che chi non ha cervello vale meno. Anche questa virtù. Io suggerirei questa storia a qualche scrittore, qualche regista, perché secondo me è un esempio di vita che deve essere portato, voglio dire, proprio in una platea grandissima, perché è tutta qui la forza di questa donna che dice: io vivo forse anche felicemente. Quindi Antonella, davvero complimenti. Antonella e marito, posso dire una cosa? Sono molto più felici di me, ne sono convinto. Quindi non è che io la invidio, sono molto contento, per far capire che gli strumenti che organizzano il grande set della felicità individuale sono strumenti che si affinano nel corso di una vita e sono strumenti che si improvvisano molte volte. Non è possibile pensare siano gli stessi per tutti. Per questo ho fatto questa trasmissione, al di là di quelli che mi stanno in questo momento indicando che il dibattito parlamentare è ben su altri argomenti, per dire: ognuno ha diritto di costruirsi con i suoi strumenti, sulla sua equazione personale, la propria felicità, e nessuno può dire quali debbano essere questi strumenti e quale debba essere questo modello di felicità. A tra un istante. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta Melog, Cronache Meridiane. 800 24 00 24, chiamateci, chiamate me e chiamate Antonella, visto che il dibattito si sta portando sul piano su cui l'avevo impostato. Ribadisco il fatto, vedete che abbiamo preso un esempio di Antonella che sembrava che non c'entrasse nulla con quella che era la mia tesi, che volevo non confermare ma semplicemente mettere in discussione con il pubblico. Se il problema è la felicità individuale, e la felicità individuale quando è soddisfatta corrisponde alla felicità collettiva, ognuno ha il diritto di costruirsela con gli strumenti che preferisce e secondo il modello che per lui è più adatto. Non esiste un modello assoluto, ammesso che possa esistere un padre eterno, non esiste un padre eterno capace di dare un modello uguale per tutti, perché se ha creato l'umanità l'ha creata molto differente nelle esigenze, nelle risorse, nelle capacità di muoversi in autonomia. Stefano, buongiorno. Pronto? Sì, l'ascolto. Ah, eccomi. Niente, no, io volevo portare la mia, tra virgolette, testimonianza. Io sono nipote di una nonna che è diventata non vedente, però per me è sempre stata non vedente. Poi, ferma un attimo, scusa Antonella, perché non si può dire cieco, sempre stosa non vedente? Usa due parole per dirne una. Ha ragione da vendere. Era cieca e quindi sono fratello di un ragazzo che è diventato cieco perché aveva mille problemi di handicap, e quindi è diventato cieco. Però... anche a me lo dicevano, guardi, me l'hanno detto i salesiani per anni, grazie a Dio sono soltanto, vedo molto male, però ancora non mi è arrivato. Ridi, non ridere, è una maialata, non devi ridere Antonella, prego. Allora niente, adesso mi è capitata l'esperienza di andare da un fisioterapista con mio figlio che ha avuto un problema in ginocchio, sì. Si chiama Daniele, non mi ricordo più il cognome, è stato sì. Anche sui giornali, che è cieco, molto o quantomeno quasi sì. Cieco. E devo dire che inizialmente non sapevo nulla e sono rimasto piuttosto sconcertato. Non ho pregiudizi perché, come dicevo, la cecità l'ho vissuta anche... Si sente l'imbarazzo, farsi mettere le mani addosso. Guarda che molti fisioterapisti fanno questo tipo di mestiere, hanno questo problema, lo fanno apposta perché fanno delle attività in cui la vista non sia indispensabile. Certo. Certo, ma non ero in imbarazzo perché comunque vabbè, stava manipolando mio figlio e non me, però un certo disagio, devo dire, che nonostante non abbia pregiudizi, l'ho comunque percepito e l'ho sentito, cercato di superarlo. Non però... siamo Superman tutti, capito? Quindi esatto. Può succedere. Ma questo volevo dire, che alcune incertezze, alcuni momenti di imbarazzo, roba del genere, da parte delle persone, tra virgolette, vedenti, nei confronti di persone che non ci vedono, che sono cieche, sono per me abbastanza naturali e non mi sembra corretto accostarle a una chiusura mentale. Ma non soltanto... abbiamo detto cultura, abbiamo usato la parola cultura, la chiusura mentale è un difetto di base che è difficilmente superabile. Cultura vuol dire informarsi, frequentare, contaminarsi. Antonella, anche tu fai la fisioterapista, vero? No, assolutamente no. Cosa fai? No, Antonella lavora, perché sembra che tutto questo, la fase fondamentale, che tutti i giorni vada anche a lavorare. Cosa fai te? Io sono un dipendente pubblico, un ex fannullone. Ma hai fatto il concorso da magistrato? Sono in attesa di risultato. Forse potrebbe diventare il primo magistrato, io spero. No, guarda, io spero tifo. Di no. Perché? Perché adesso che ho cambiato ufficio sto tanto bene. Non vuoi più fare il magistrato? No, questo non lo posso dire, perché altrimenti non avrei fatto il concorso e non avrei studiato. Sarebbe una bella sfida, però sai. Sarebbe una bella sfida. Sì, sarebbe una bella sfida, sarebbe interessante. È stato duro prepararlo? Sì, per tanti problemi, fra i quali il problema che tutti i non vedenti conoscono, dei libri di testo. Io trovo un'assurdità che oggi i libri nascano in formato file e poi ancora, perché le case editrici non te le danno per il diritto d'autore, eccetera, eccetera, eccetera, io devo stare con lo scanner a casa a scansionarmi un libro e non mi dite... Ma questa che è una follia per Antonella. Questa è una follia. Allora, però ti dico, qualunque libro esce, in cambio di una recensione, chiedendo una recensione, dici mi mandi il PDF, ti riempono il PDF. Un testo scientifico per un cieco che debba studiarci sopra, non ti danno il PDF. Allora, bisogna parlare con le singole case editrici, ci sono case editrici che te lo danno, case editrici che non te lo danno, case editrici che ti dicono sì, però poi c'è la biblioteca di Monza che te li dà. Con i suoi tempi, nei quali non entro in merito. Tu hai preparato un concorso impegnativo come quello per la magistratura, molte volte scansionando i libri a mano, sì. Cioè, quante pagine sono un libro di testo? Dipende, insomma, sono poderosi, manuali universitari, 1000-1500 pagine. Quanti anni sono che lavori? Parecchi? Da libera professionista, che fece discutere tanti anni fa quando dissi che ero libera professionista, da libera professionista dal 2001 dopo la laurea, da dipendente pubblico dal 2008. Ecco, quali sono i problemi grossi che hai avuto sul lavoro? L'incapacità relazionale, l'incapacità relazionale, siamo sempre lì, l'incapacità relazionale di alcuni. Poi bisogna vedere sempre, decidere da che parte guardare. A fronte di tanta incapacità relazionale ho trovato anche altre incapacità relazionali e umane. Sul posto di lavoro tutti abbiamo bisogno degli altri per lavorare, non ci sono monadi. Io posso avere la necessità che una collega mi guardi una cosa, la collega può avere necessità di un, come dire, un consulto, uno stimolo, una spiegazione. Quello che lei, dove, in cui una o un collega si incarta, siccome lei ci si è incartata, io invece sono a mente fresca, posso risolverlo. Quello di cui ho bisogno io me lo può dare un'altra collega. Qual è? Siamo arrivati in conclusione. Non esistono formule magiche o parole risolutive o parole chiave che risolvono tutto, ma in questo caso, se noi abbiamo voluto fare una trasmissione provocatoria e spiegare a quelli che pensano avere dei modelli unici, che i modelli sono molteplici, come si esce da questa normale fisiologica difficoltà nell'ammettere che altri abbiano gusti, tendenze, visioni della vita, piacevolezze diverse dalla nostra? Andando oltre lo stereotipo, cioè il cieco non è un cieco, è una persona che non vede, e questo si può dire per tutti. Ha una caratteristica che lo caratterizza fortemente, ma è qualcosa di altro che va oltre questa caratteristica. Grazie Antonella, grazie anche Alessandro, non è qui presente ma è come se ci fosse. Alla prossima!